Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori e buonasera a Franco Marzo. Buonasera. Franco Marzo è autore del libro I Factor, il genere d'imprenditore, edito da Franco Angeli. Realizzare un'impresa, lezioni per manager. Un libro che raccoglie una serie di interviste, ma non solo, a 13 imprenditori italiani, 13 imprenditori in gran parte di successo, ma diciamo tutti di successo, e che in fondo indicano la strada che l'Italia può e dovrebbe seguire per avviare la ripresa. È giusta questa introduzione, Franco Marzo? Marzo? Direi perfetta. Franco Marzo è dirigente di imprese nazionali e multinazionali, oggi consulente di strategia e organizzazione, si occupa di imprese familiari e di cultura d'impresa. Come ha scelto questi imprenditori, Franco Marzo? Ma guardi, io cercavo degli imprenditori che potessero rappresentare bene la definizione che ho trovato sul vocabolario di impresa. Sul vocabolario ho trovato l'impresa come iniziativa di lungo e faticoso esito, per cui fare un'impresa è come andare sul K2, quindi cercavo imprenditori che non fossero diventati imprenditori per un colpo di fortuna, ma attraverso un processo lungo e faticoso, e quindi di cercare persone che potessero rappresentare proprio l'imprenditorialità in questa accezione. Ecco, è anche un'immagine un po' dell'imprenditoria italiana in tutte le sue dimensioni: c'è il piccolo imprenditore, c'è il grande imprenditore come Alberto Bombassei, come Francesco Casoli, c'è una presenza femminile come quella di Marina Salomon, di Cristina Calori, c'è la grande impresa e c'è la piccola impresa, quindi c'è anche una rappresentazione della complessa realtà italiana in cui ci sono molte imprese che vanno bene e non lo fanno sapere. Certo, certo. Ho cercato di rappresentare l'imprenditorialità anche sotto l'aspetto umano. Ho volutamente cercato donne, uomini, persone di una certa età, persone più giovani, proprio per sottolineare un aspetto culturale, cioè l'aspetto umano del fare impresa, perché spesso noi siamo portati fuori da pregiudizi di tipo ideologico, politico, economico, e invece fare impresa è un'azione soprattutto umana che richiede coraggio, e quindi credo che sottolineare questo aspetto possa dare un contributo anche a valorizzare un pochino il coraggio e l'intraprendere come proprio attività dell'uomo. Ecco, ecco, guardiamoli un po' magari uno per uno, anche se non tutti. Volentieri. questi imprenditori, anche perché a fianco di ogni nome, all'inizio di ogni capitolo, c'è anche una sintesi un po' della logica con cui queste persone hanno fatto impresa. Per esempio Alberto Bombassei, una grande impresa, la Brembo, la bellezza che aiuta a frenare. Ecco, questo è un concetto che è abbastanza, non è intuitivo, nel senso non è immediato, perché uno pensa al freno e pensa a un articolo tecnico, tecnologico, di grande tecnologia, poi Bombassei fa freni per la Formula 1, per le MotoGP, quindi sono leggendarie le sbrembate, no? di Valentino Rossi, per cui nessuna immagine che nella mente dell'imprenditore possa aleggiare questa idea di bellezza. In realtà è proprio questo, è proprio questo che ritorna sia negli ambienti che mi hanno accolto durante l'intervista, che sono molto belli. Lui ha affidato la progettazione a un architetto francese molto bravo, Jean Nouvel, e per lui il bello è quel valore aggiunto, per cui quando a un certo punto nell'intervista parla di un freno innovativo che è frutto di un complesso procedimento e studio matematico, e dice: vedesse quanto è bello il radial, non so, adesso non ricordo esattamente il nome di questo nuovo freno, per cui la bellezza è quel valore aggiunto che può giustificarsi anche in un articolo estremamente tecnologico come i freni. E questo è un insegnamento per tutti, penso. Ecco, si può ricordare come proprio la Brembo abbia dato origine a quei freni rossi che si vedono, di far vedere le pinze dei freni delle macchine ad alta velocità, è indubbiamente un elemento che dimostra anche in fondo la grande soddisfazione di fare un prodotto che sia importante a livello tecnologico e a livello produttivo. Certo. Ma restiamo nell'ambito della automobile, per esempio Tony Fassina: si può andare veloci solo se tutto è sotto controllo. Tony Fassina è un imprenditore, nel libro rappresenta la specie dei commercianti, di coloro che creano valore attraverso un'intermediazione. Lui è un ex pilota di rally e quindi, nonostante il pilota insomma rappresenti un pochino un archetipo di uomo coraggioso, in realtà è un preciso, è una persona che, lui dice, si può osare tutto, basta che sia tutto sotto controllo, per cui la capacità organizzativa e l'avere ha una capacità di sintetizzare in numeri tutto ciò che viene prodotto in azienda, per cui ha un numero per ogni processo e quindi questo gli permette di guidare e di pilotare la sua macchina. Tra l'altro ha 40 concessionarie in giro per l'Italia, per cui con questo periodo storico di crisi del settore automobilistico, se non fosse così sarebbe un disastro, per cui riesce a sopravvivere in questo momento terribile proprio anche grazie a questa capacità di continuo controllo e monitoraggio di tutti i ratio che compongono il processo economico delle concessionarie. Ecco, un'altra impresa in qualche modo sorprendente, quella di Francesco Casoli, la Elica Cappe Aspiranti, in fare nelle Marche un'azienda di cappe aspiranti che ha assunto delle dimensioni mondiali, può essere qualcosa che è veramente sorprendente, anche perché, poi lei lo dice, nell'azienda è stata classificata negli anni scorsi ai primi posti come migliore posto dove si possa lavorare. Allora, Francesco Casoli, l'imprenditore discolo. Discolo. L'imprenditore discolo è un'accezione che gli danno i suoi collaboratori più anziani, perché l'hanno visto crescere. La storia di Francesco Casoli è una storia italiana, lui è figlio di un imprenditore, purtroppo è rimasto orfano molto giovane, quindi a 16 anni si è trovato il peso di tutta questa azienda e ha dovuto in qualche modo uscirne con le proprie forze. E quindi i collaboratori, i vecchi collaboratori con cui ho parlato casualmente mentre mi portavano alla stazione, se lo ricordano come ragazzino, un ragazzino terribile che girava per la fabbrica. In realtà ha saputo interpretare questa grande responsabilità che gli è caduta addosso con grande coraggio e è un esempio di capacità di delega e di imprenditoria orientata proprio all'integrazione della fantasia, della creatività, per cui si trovano all'interno della fabbrica, si trovano degli spazi, c'è un grande bar dove le persone, una specie di piazza di cui lui è orgogliosissimo, per cui le persone possono prendere il caffè e hanno delle lavagne su cui magari raccontarsi quello che fanno, comunque scambiarsi opinioni, per cui è un'azienda molto attiva in un distretto, per la verità, storicamente vocato a questo tipo di attività, per cui nella zona di Fabriano non è casuale, certo, ecco, avere aziende che si occupano di queste cose. Ecco, potremmo continuare a lungo parlando di tanti imprenditori incontrati in questo libro I Factor, il genere dell'imprenditore di Franco Angeli, però con Franco Marzo dobbiamo avviarci alla conclusione. Allora possiamo dire che sulla base di queste esperienze l'Italia comunque è un paese che ce la può fare. L'Italia è un paese straordinario e devo dire che parlare direttamente con questi imprenditori, che ripeto non sono tutti colossi, per cui però ti trasmette un'energia straordinaria, e quello che io volevo in qualche modo anche trasmettere in relazione anche alla mia esperienza personale di manager, proprio la capacità di trovare questa energia, questa voglia di buttare un pochino il cuore oltre l'ostacolo, che non è retorica, ma sì, quando si incontrano persone di questo tipo, che sono persone tra l'altro normalissimo, per cui viene da pensare che l'i-factor tra virgolette ce l'abbiamo tutti, no? Certo. Un pochino, quindi è alla nostra portata, per cui è un incoraggiamento anche ai giovani, a chi ha un'idea di provarci, perché probabilmente è un modo anche per vivere meglio, ecco, con più soddisfazione, meno frustrazioni di qua. quante non ne possono derivare da altri tipi di attività. C'è una frase molto significativa: il successo è un participio passato, il futuro è far succedere. E c'è anche un'ulteriore dell'introduzione, si dice: parlare bene dell'imprenditore per noi non significa parlare di economia, ma parlare bene dell'essere umano, delle sue potenzialità, delle sue doti, delle sue capacità di relazioni con gli altri esseri umani, delle sue avventure, del bene e del male. E ci concentreremo sull'essere più che sul fare, non forniremo ricette ma ritratti, non procedure ma imprese possibili. E questa forse la sintesi che possiamo fare di questo libro, grazie a Franco Marzo di averlo scritto, di essere stato con noi questa sera. Grazie a lei. Abbiamo parlato con Franco Marzo del libro I Factor, il genere dell'imprenditore, realizzare un'impresa, lezioni per manager, edito da Franco Angeli, 176 pagine per 21 euro. Grazie a Franco Marzo, quindi grazie a Fabio Cantadori in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona serata.